Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e benvenuti. Questa casa non è un albergo, ha traslocato, si è trasferita a Torino alla Fiera del Libro, dove potete raggiungerci. Siamo al padiglione 2, stand H170. Se guardate la sala blu, noi siamo subito lì vicino, accanto, quindi potete raggiungerci. Naturalmente ci ha raggiunto e mi ha aiutato anche nel trasloco Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Alberto, oggi la nostra trasmissione sposa un'iniziativa che ha coinvolto scuole e bambini di tutta Italia negli ultimi mesi. Come i bambini parlano di razzismo e cosa gli adulti, i loro genitori e la scuola possono fare a tale proposito? Alberto, un bel tema che approfondiremo con tanti ospiti. Devo dire che la Fiera del Libro è piacevolissima perché è un incontro continuo con persone, riflessioni, scambi di idee, mi piace un sacco. Alberto. Sì, oggi abbiamo la possibilità insieme a voi genitori di capire cosa noi grandi diciamo ai bambini rispetto a un tema che si chiama razzismo, ma ci interesserà molto capire anche cosa i bambini dicono ai grandi rispetto a questo tema, e devo dire che ci piacerebbe avere magari qualche contributo dai genitori all'ascolto, sia genitori italiani, ma ci interessano molto anche i genitori stranieri. Come è andata a loro nella loro famiglia rispetto al processo di integrazione tra i loro figli e gli altri bambini? Allora, il numero verde per intervenire come sempre è 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Direi, Alberto, di presentare gli ospiti che abbiamo in studio con noi, che ci accompagneranno nel corso della nostra trasmissione. Abbiamo Valentina De Poli, che è direttore di Topolino. Buongiorno a tutti. E Topolino ha sempre delle brillanti idee. Sì, è certo. Vogliamo parlare dell'idea che Topolino sta portando avanti con le librerie Feltrinelli? Certo, che tra l'altro verrà celebrata nella sua massima momento di esplosione proprio qui alla Fiera del Libro, ed è un'idea che è nata, perché doveva nascere. Sapete quando quelle cose proprio arrivano e si compongono passo dopo passo. Volevamo intraprendere un percorso dedicato alla poesia insieme ai nostri lettori, i nostri lettori che sono i ragazzi che vanno più o meno dagli 8 fino ai 12 anni, ma sappiamo, anche le famiglie. Esatto, perché Topolino, vero? Alla fine è un giornale che io amo definire un giornale per la famiglia. Nel momento in cui entri in una casa, tutti se lo passano. E quindi abbiamo sperimentato quest'estate così una specie di richiesta, un concorso, mandateci una poesia. Abbiamo visto che era un tema molto caldo, quindi abbiamo deciso, lo cavalchiamo, l'abbiamo proposto alle librerie Feltrinelli, perché lo scorso anno qui alla Fiera del Libro sempre avevamo realizzato un concorso, un contest letterario sempre per ragazzi, per provare a ripetere l'esperienza, e loro ci hanno parlato di questa nuova campagna che era partita da poco, dedicata appunto alla lotta contro il razzismo. E il razzismo è una brutta storia, abbiamo semplicemente aggiunto una frase: il razzismo una brutta storia, ora lo dico con una poesia. Mi piace molto. E qua in studio c'è anche un'altra persona che mi piace molto, devo dire. Giuseppe Calliceti è un maestro elementare, anche lui invitato in questa trasmissione, Alberto, perché anche lui ha un contributo da portare. Buongiorno maestro. Ciao. Posso ciao darti del tu, maestro? Sì, meno sì. Male, allora, questo mi piace di più. Tra maestri adesso non si, anche coi bambini non si usa più il lei, ma da decenni. Allora gli diamo del tu. Caro maestro, ti abbiamo voluto qua oggi perché tu, tra l'altro, proprio in associazione a questa iniziativa, hai curato un piccolo libro, al momento è ancora piccolo, poi diventerà grande l'anno prossimo, Italiani per esempio, l'Italia e gli italiani visti dai bambini immigrati, che è un'antologia molto divertente, a volte anche un po' impressionante, di quello che non i bambini italiani dicono dei loro compagni stranieri, bensì di quello che i loro compagni stranieri raccontano del vivere in un'altra nazione. Sì, si tratta di un'anteprima. Il libro, questa piccola anteprima, viene data insieme alla borsa Il razzismo è una brutta storia, ma l'idea era quella di provare a vedere cosa hanno da dire e come vedono parlano noi italiani e l'Italia in generale di questo ultimo periodo, di questi ultimi anni, i bambini stranieri, cioè i piccoli immigrati. Perché noi sui giornali, specie anche in questi giorni, si sente parlare in continuazione del tema dell'immigrazione, dei problemi che crea, del fatto che ci sono appunto difficoltà, mentre invece visto dalla parte dei bambini e visto soprattutto i bambini, sempre i bambini subiscono l'immigrazione, questo lo vorrei dire subito, qualsiasi bambino vorrebbe continuare a vivere nel suo paese, con i suoi genitori, con i suoi parenti. Ogni bambino, e poi noi lo dovremmo sapere perché l'Italia è stato probabilmente il paese che ha avuto più immigrati nel mondo, ogni bambino subisce un po' questa cosa e perciò guarda con occhi diversi il mondo attorno a sé. Allora, prima di andare alle strade, io vorrei farvi ascoltare, dura proprio poco, questa una delle poesie che hanno vinto il concorso Razzismo è una brutta storia, realizzata appunto dalla libreria Feltrinelli in collaborazione con Topolino. L'ha scritta Matteo, l'ascoltiamo e poi io vi rimando subito, senza risalutarvi, al traffico e torniamo insieme. Vi rinnovo solo l'invito per partecipare in diretta, 800 24 0024, quindi di poesia, traffico e poi di nuovo insieme. Due occhi, due mani, una bocca per ridere, nel petto un gran cuore che i sogni fa vivere. Problemi, progetti, speranze, ideali, sembriamo diversi, ma siamo tutti uguali. Non c'è differenza, e sai che ti dico? Ti guardo negli occhi e ti sento già amico. Abbiamo tutti voglia di amore e di pace, non dare mai retta a chi questo non piace. Ricordagli invece che forse è un po' dura ammettere che chi non conosce gli fa un po' paura. Io voglio conoscerti anche perché da te io imparo e tu impari da me. Soltanto chi pensa così va lontano. Vieni, fratello, stringiamoci la mano. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme ad Alberto Pellai. Alberto, oggi in questa casa davvero abbiamo degli ospiti che, come dici tu spesso, accendono pensieri. Infatti stai gongolando. Abbiamo il direttore di Topolino, che è una garanzia. Che privilegio incredibile. Abbiamo naturalmente un maestro elementare e poi facciamo entrare il mondo letteralmente nella nostra trasmissione, perché è di mondo che ci occupiamo oggi. E allora io vorrei far entrare anche nel nostro salotto Attilia, che ci chiama da Novara, 800 24 0024, poi leggerò alcuni messaggi. Attilia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Io volevo segnalarvi un libro che ho letto di recente. Brava. Un libro di racconti, cosa strana per scrittori italiani. È uno scrittore italiano che si chiama Gianluca Mercadante. Sì, stiamo prendendo nota. Si intitola Compito in classe ed è un tema scritto da un bambino delle elementari che racconta un fatto di cronaca. Il fatto di cronaca è l'uccisione di una donna italiana da parte di un rumeno e lui in questo racconto si esprime come i suoi genitori gli hanno insegnato a esprimersi nei confronti di uno straniero. E come gliel'hanno insegnato, Attilia? Diamo un'anticipazione. Gli stranieri e soprattutto i rumeni fanno dei lavori che noi italiani non facciamo più perché noi siamo diventati intelligenti. Sì. Gli hanno insegnato che comunque i bambini stranieri, soprattutto i rumeni, sono poveri e che forse è meglio non stare vicino a loro perché non possono fare cose importanti come i bambini italiani, perché non hanno i mezzi. Ecco, quanti danni facciamo noi genitori. Esatto. Attilia, grazie. Questo racconto mi ha fatto pensare molto perché comunque i bambini purtroppo sono delle spugne e assorbono tanto quello che la famiglia dice loro. Attilia, ti ringrazio dello spunto e anche della segnalazione di questo libro che mi sembra che il nostro maestro conosca bene, perché Attilia, intanto che lei raccontava, il maestro annuiva. Gianluca Mercadante, un bravo scrittore che conosco. Vi è mai lei come maestro è mai venuta l'idea, anzi a te abbiamo deciso che i bambini danno del tuo ai maestri, Hai mai pensato di dare un tema con questo titolo che aiutasse un po' i bambini a tirare fuori quello che sentivano, quello che venivano, a cui venivano educati a casa? Sì, è tutto un po' questo. Libro è costruito un po' anche in questo modo, sono stati dati degli stimoli, poi dopo i bambini hanno risposto. Ecco, vorrei dire che spesso se rispondono oralmente c'è qualcosa di più spontaneo ancora che nello scritto. Che cosa ti ha colpito dei tuoi bambini? Poi sentiremo anche un estratto di questa anticipazione, di questo assaggio di un lavoro che poi arriverà tra qualche tempo. Allora, intanto io naturalmente sono sia con bambini stranieri ma anche con bambini italiani da ormai tanti anni, anche se all'inizio ho curato un progetto di integrazione solo per i bambini stranieri nelle scuole elementari dei paesini tra Reggio e Parma. Sì. E, ecco, una delle differenze, senz'altro una delle cose che mi ha colpito di più è quello legato per esempio alla famiglia, il bambino straniero, il bambino albanese, marocchino, così nella scuola italiana, nel maestro, nei maestri ha una grande fiducia ancora. Mi ricorda, non so, il papà italiano, per esempio mio padre mi mandava a scuola dicendo è importante studiare, forse potrei avere un futuro migliore. La stessa cosa dicono i papà albanesi, i papà marocchini e così ai loro figli che sono adesso in Italia. Certe volte invece i genitori italiani in questo periodo storico non hanno verso la scuola, l'insegnante, gli insegnanti questa fiducia, questo ottimismo, a volte giustamente, a volte anche secondo me non ha ragione. Attilia ci raccontava di questo libro e diceva i bambini raccontano quello che praticamente imparano a casa, e in questo caso citava i rumeni, che sono famiglie povere, che comunque fanno dei lavori che noi non facciamo più, perché, diceva Attilia, era scritto nel libro, siamo diventati più intelligenti. Io volevo chiedere al direttore di Topolino e poi naturalmente al nostro guru Alberto Pellai come si deve in qualche modo mandare, come si possono educare i bambini all'integrazione, anche venendo, no? Ma anche metabolizzando quelle informazioni che ci sono, che poi anche i bambini leggono, sentono, e che invece vogliono fare questa sovrapposizione tra razzismo e violenza, razzismo e quello, il bambino oppure la persona che viene da un paese straniero è comunque un delinquente, una persona di cui avere paura. Certo, dunque, è un compito non facile, però fondamentale. Infatti sia l'intervento di Attilia, quello che diceva poco fa Giuseppe, ma anche la poesia che abbiamo sentito prima, la poesia di Matteo, che non a caso ha mandato la sua poesia e ha vinto nella categoria famiglie perché è stata scritta con la mamma. E qui c'è proprio una riflessione che ho fatto quando ho ricevuto le poesie sulla partecipazione dei genitori che accompagnano i bambini, che anche se non hanno scritto la poesia con il bambino, spesso si sono lasciati andare nello spazio a loro riservato a un commento, come a dire noi ce la mettiamo tutta. Ed è un ruolo fondamentale. Io credo proprio che il rispetto alla diversità debba partire, o può partire, dalla famiglia principalmente e poi passare attraverso la scuola, meglio ancora se esiste un legame, una complicità tra scuola e genitori, che credo sia quello che in questo momento stia venendo un po' a mancare. Alberto, ci rimettiamo ai tuoi consigli, poi tra l'altro tu li vivi nel campo, perché essendo papà di 4 bambini io so che Jacopo ad esempio ha già scritto una poesia magnifica che Jacopo ha partecipato. Ha lasciato senza parole sia Alberto che sua moglie, che sono pur tutte e due scrittori. Jacopo ha partecipato al concorso di Topolino e, come diceva Valentina, per noi è stato molto importante dargli l'idea, lo stimolo. C'è questa possibilità, sei un bambino che ha un sacco di cose da dire, in casa se ne parla naturalmente di questi temi. E ti dico proprio solo l'ultima frase, quella che per esempio non importa che tu sia bianco, rosso, giallo, blu, ciò che importa per me sei tu, punto. E devo dire che è straordinario. Me la ricordo questa poesia, era entrata tra i finalisti. Ecco così adesso lo diciamo a Jacopo, che si tirerà sicuramente sul morale. È fondamentale per noi genitori avere chiarezza rispetto a quali sono i valori su cui realmente vogliamo investire nella nostra vita familiare, perché se un genitore ha chiaro che per lui l'invasione degli extracomunitari è un problema, questo è il valore che trasmette a un figlio. Se invece magari non ne ha mai parlato, ma ha chiaro che per lui il valore è ciò che ciascuno di noi nasconde di unico e speciale dentro alla propria persona, allora a questo punto la diversità può essere una straordinaria ricchezza. Di questo si può parlare con i nostri figli, e chiaramente questo è il lavoro che fanno anche gli amici insegnanti con i gruppi classe quando convivono bambini di provenienze diverse. E dal libro Italiani per esempio, l'Italia e gli italiani visti dai bambini immigrati, di Calicetti, del nostro maestro qua in studio, io vi farei ascoltare una poesia di una bambina che commentiamo subito dopo il nostro GR che mandiamo in onda subito dopo. 824 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire in diretta, i messaggi al 349 238 6666. Allora sentiamo questa bella poesia che ci dà degli spunti di riflessione. Se un indiano va a abitare in una città dove tutti sono gentili, anche lui diventa gentile. Anche se lui non era gentile, con il tempo diventa gentile. Se un indiano va a abitare in una città dove tutti non sono gentili, anche lui dopo non è più molto gentile. Lui ci prova, ma dopo non ci riesce. Perché quando tu abiti in un posto, dopo un po' ti abitui al posto che abiti, alla gente che abita al posto. Anche se tu sei un indiano gentile, forse dopo non sei più tanto gentile, o forse invece lo sei ancora, ma fai più fatica. Io spero di essere sempre gentile, ma non lo so come sarò da grande. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, noi siamo alla Fiera del Libro di Torino, siamo al padiglione 2, stand H170, vicino alla Sala Blu. In regia qua alla parte tecnica abbiamo Paolo Corleoni, Davide Ciocia, abbiamo anche i nostri visitatori che sono accolti da Elena Ligios e continuano a diventare critici letterari per un giorno, un'iniziativa che Radio 24 ha lanciato in parallelo all'iniziativa che abbiamo lanciato per radio, e devo dire che ha avuto grande successo. Ci sono tanti critici letterari che ci stanno così raccontando il libro in cui si sono identificati. Noi torniamo a parlare di razzismo insieme ad Alberto Pellai, naturalmente alla nostra ospite, direttore di Topolino, direttrice di Topolino. Arrivano già i messaggi: perché non direttore, perché non direttrice? Allora, diciamo mamma di Topolino non si può, direttore e direttrice di Topolino. E abbiamo anche il nostro maestro che ha scritto, ha raccolto le impressioni dei bambini immigrati nei confronti della vita che li aspetta qui in Italia, dell'integrazione. Alberto, io credo che sia importante continuare a dare dei messaggi su, noi seguiamo un po' le tue indicazioni, sei il nostro papà che ci aiuta anche un po' nei momenti difficili, quando magari i ragazzini tornano a casa e raccolgono delle idee che vanno contro all'idea di integrazione, quindi si appoggiano più all'idea dell'immigrato come potenziale pericolo. Alberto. Sì, e rubo un po' un'idea anche a Giuseppe Calicetti, il nostro maestro che è qua con noi. Ragionavamo proprio fuori di diretta, diceva i bambini sono bravissimi poi a integrarsi fra di loro, tu mettili insieme, loro vanno, giocano, certo, a tutti i giochi del mondo, parlano tutte le lingue del mondo, cantano tutte le canzoni del mondo. Ma poi ci sono quegli invisibili steccati che a volte sono proprio costruiti dagli adulti, per cui per esempio devi scrivere tuo bambino a scuola, vuoi verificare quanti saranno i bambini che arrivano da altre nazioni nella loro classe, perché hai paura che loro rallentino il ritmo di apprendimento. E se invece lo velocizzassero? E se invece portassero note di colore, note di musica? Raccontatecelo all'824 0024. Allora, Topolino come può aiutare i bambini e soprattutto le famiglie? Abbiamo detto che Topolino viene letto dai bambini ma anche da tutta la famiglia, è un giornale di famiglia, aiutare a mandare questi messaggi che sono di integrazione e quindi di ricchezza. Allora, sfruttiamo sempre quella che è la ricchezza del giornale, che sono i nostri lettori, che sono dei lettori che partecipano, sono proprio partecipativi, rispondono a tutto e infatti lo hanno dimostrato anche nei confronti di questo concorso, per cui continuare a proporre loro delle cose, a chiedere loro i loro pareri, perché è uno stimolo per far entrare nelle famiglie proprio l'argomento di cui si vuole parlare, così come del razzismo abbiamo anche lanciato delle campagne ambientali che stanno andando benissimo. E poi io mi ritengo fortunatissima perché ho un alleato prezioso che è il fumetto. Io credo tantissimo nel potere del fumetto come mezzo per comunicare qualsiasi cosa, e in più posso lavorare con i personaggi Disney. Attraverso i personaggi Disney riesci davvero a comunicare anche temi importanti, sfruttando intanto il loro modo di comunicare. Guardate, pensate sempre agli occhi dei nostri personaggi, questi occhi spalancati che catturano la tua attenzione e di sicuro ti trasmettono qualcosa di positivo. E in più puoi usare il registro dell'umorismo. Attraverso il registro dell'umorismo riesci a edulcorare anche quelli che possono sembrare temi un po' più difficili, attraverso le storie, che sono storie vere, quindi non sono storielle, ma hanno uno storytelling ben preciso. Puoi costruire proprio dei percorsi, quindi, e lanciare dei messaggi. Impariamo dal nostro eroe Topolino e da tutti gli amici di Topolino. Voglio salutare i nostri ospiti che ci hanno raggiunto, un'altra maestra, quindi collega del maestro Calicetti, la signora Otterson. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno signora, grazie per essere con noi. E in nostra compagnia abbiamo anche un ospite molto importante, anche se una donna e una donnina in erba. Alberto, so che vuoi presentarla, sì. Tu, si chiama Lisa. Lisa Fontanella, della classe quarta a scuola primaria Don Milani di Parma. Buongiorno Lisa. Ciao. Ciao Lisa, tu sei la persona più importante oggi in trasmissione, perché tu con tutta la tua classe siete i poeti dell'anno, ci avete regalato una collezione di poesie, una in particolare è finita su Topolino e la ascoltiamo insieme per parlarne con voi. Che cos'è l'antipatia? L'antipatia è essere rivali e fare i dispetti, buoni e cattivi i nostri volti, siamo sempre noi i più forti. Che cos'è l'odio? L'odio è ferirsi a vicenda con la bocca, parole dure come becco d'oca, stecca di sillabe pesanti come una brocca. Che cos'è la violenza? La violenza è dar calci e pugni senza motivo, quando m'annoio, invidioso picchio senza pietà. Che cos'è la delinquenza? La delinquenza è togliere la vita, tradita da avidità. Per la vittima, nessuna possibilità. Signora maestra, signora Otterson, io volevo chiederle che cosa ha rappresentato per lei, come per tutta la sua classe di bambini che sono stati davvero in gamba, partecipare a questa iniziativa e quindi aderire al progetto che Topolino ha lanciato con insieme in collaborazione alle librerie Feltrinelli. Educare i bambini all'integrazione in pratica. Che cosa è stata un'avventura che in qualche modo si aspettava, ha seguito un pochino l'iter che lei credeva, o è stato una sorpresa? Dunque, ovviamente la premiazione è stata una sorpresa e per quanto invece riguarda il lavoro a cui io democraticamente con i bambini ho aderito, è una tematica, quella, una parola problema, diciamo, il razzismo, che ritengo opportuno sia nell'ambito dell'italiano e della storia poter affrontare abbastanza di petto con i ragazzi, no? Sia come espressione forte o che ha un grande impatto emotivo, e sia perché non esprime in realtà il tema dell'immigrazione, cioè un falso concetto questo del razzismo. Già l'UNESCO nel 51 aveva cercato di far abolire la parola razza, e noi ci troviamo ancora ad affrontare questo problema dal punto di vista comportamentale, ma partendo dal semantema razzismo. E quindi abbiamo lavorato soprattutto anche con il teatro per comprendere che il razzismo è qualcosa che è dentro di noi, cioè ci chiama in causa, sono cose che succedono dentro di noi, attorno a noi, e ovviamente nella società italiana, in Europa, nel mondo, ma a partire dal microcosmo classe. E quindi a proposito, è lì che si svolge tutto il problema della cittadinanza e dell'integrazione reale, non dell'assimilazione forzata. Certo, Lisa, che è la nostra poetessa, se il razzismo fosse un animale, che animale sarebbe secondo te e perché? Un leone, una belva feroce, perché è come se ti assalta, cioè se io mi immedesimo in uno straniero, ti assalta da un momento all'altro. Infatti nella nostra classe ci sono 6 bambini stranieri, un albanese, uno moldavo, 3 filippini e uno tunisino, che li assaltiamo un po', prendendoli in giro, così. E anche la maestra, quando è arrivata l'anno scorso, visto che è tedesca, l'abbiamo anche lei assaltata, perché pensavamo che una maestra tedesca non potesse insegnare italiano. Invece vi siete ricreduti, Lisa, vero? Sì, ecco. Ci siamo ricreduti perché eravamo a livelli brutti per l'italiano, invece siamo arrivati a vincere un concorso nazionale. Magnifico, Lisa, noi dobbiamo salutarci, complimenti, domani Lisa insieme alla sua classe sarà premiata proprio qui alla Fiera del Libro, stiamo sforando, un abbraccio e un saluto a tutti. Alberto, noi traslochiamo di nuovo, il prossimo sabato trasmetteremo da Milano, buona giornata a tutti, buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.